ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Ben ritrovati in giardino. Domenica 6 settembre, eccoci insieme per la prima puntata della terza stagione del Giardino Segreto. Il tempo vola. Se ad agosto mi avete seguito di mattina, sappiate che d'ora in poi l'appuntamento con i fiori e le piante alla radio sarà a quest'ora, la domenica pomeriggio alle 15.30. Ma se preferite un altro orario non c'è problema, perché potrete ascoltare quando vi pare, grazie ai podcast del Giardino Segreto su radio24.it e sulle tante piattaforme che si trovano in rete. Oggi, con le piante, nutriremo non solo lo spirito, perché parleremo di piante edibili che si mangiano, viaggiando da sud a nord, dalla Puglia fino a Milano, città dove sta per nascere una food forest, un bosco edibile di cui parleremo nella seconda parte. Subito andiamo in Puglia a scoprire l'universo delle erbe spontanee, non solo mangerecce ma anche curative. A condurci in questo viaggio Nello Biscotti, laureato in scienze agrarie e dottore di ricerca in geobotanica. L'amore è un'erba spontanea, non una pianta da giardino. Ippolito Nievo. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Allora, devo dire che la nuova stagione del Giardino Segreto si inaugura con un vero e proprio regalo per tutti coloro che si stanno interessando alle cosiddette erbe selvatiche, erbe di campo, erbe spontanee, come le vogliamo chiamare, che sono un vero e proprio patrimonio che potremmo anche dire, ahimè, dimenticato. Ma in questo caso gli appassionati hanno un nuovo strumento favoloso, è un libro monumentale, 560 pagine, si intitola Vie Erbose. E gli autori sono proprio Nello Biscotti, che abbiamo al telefono, insieme a Daniele Bonsanto. Innanzitutto congratulazioni per aver portato a termine quest'opera, Vie Erbose, dedicato alle erbe spontanee pugliesi, ma io direi non solo, perché poi in realtà... Complimenti. Grazie, questo non fa che piacere, insomma, chi fatica, insomma, la fatica quando premia è sempre bella. Senta, questo volume raccoglie circa 10 anni di indagini etnobotaniche e il contributo di oltre 600 informatori botanici. Tra botanici e quelli che sono i raccoglitori, che ancora continuano a fare uso di questo cibo e che sono quindi i depositari di questi saperi. Perché avete fatto delle vere e proprie interviste tra gli anziani, possiamo dire? Sì, fa parte il metodo che usa l'etnobotanica per documentare, non può che basare tutto sull'intervista, perché sono saperi che si conservano nelle memorie, che sono sempre state trasmesse per via orale. È solo che questa trasmissione, che funziona da secoli, in questi ultimi 30-40 anni si è inceppata, perché non c'è più la nonna o la mamma che insegna al figlio, al nipote, l'erba, la pianta che si mangia, che può far guarire, può cicatrizzare una ferita. Tutti questi saperi sono arrivati a noi modificati nel tempo, arricchiti, solo con un mezzo dell'oralità. Nel momento in cui viene meno questa, è chiaro che tutto questo patrimonio di saperi rischia di estinguersi. Ecco l'etnobotanica, che ha la sua metodologia, e così si può documentare veramente la tradizione, perché le erbe selvatiche hanno rappresentato un tempo o dei momenti nella storia dell'umanità. Cioè quei momenti in cui o carestie o guerre non c'erano più i cibi convenzionali, e allora la povera gente faceva uso di questi cibi spontanei, e che l'erba era quella più ricercata, perché aveva volume, faceva massa, perché tuberi, bacche, foglie, che questi veramente hanno rappresentato il pasto. Poi inventare l'agricoltore significa inventare dei cibi, ecco, è lì che comincia a nascere poi le due categorie contrapposte, no? Cibo selvatico, carota selvatica o carota coltivata. I prodotti coltivati alla fine hanno preso piede facendoci dimenticare appunto quelli spontanei, che sono un patrimonio sia dal punto di vista della biodiversità naturalmente, quindi della cultura e della conoscenza, ma sono un patrimonio anche dal punto di vista della loro utilità, perché il fatto che lo usassero in momenti difficili, lei diceva di carestia, che usassero questo cibo soprattutto i contadini, la gente del popolo, non significa che questo... che queste erbe spontanee non abbiano, insomma, dei grandi valori e dei grandi benefici per la nostra salute. Assolutamente, sono d'accordo. La ricerca scientifica sta facendo emergere altro, come appunto lei stava dicendo, che intanto queste specie hanno nutrito, e oggi lo stiamo dimostrando, perché cominciano a essere oggetto di analisi nel campo di scienze dell'alimentazione, nel campo della biochimica, e lì vengono fuori che queste erbe, queste cicoriette, poi hanno principi nutrizionali incredibili, hanno sfamato ma nello stesso tempo hanno nutrito. C'è di più ancora, è emerso per esempio che hanno rappresentato pure nuovi sapori. E potrebbero rappresentarlo ancora, no? E potrebbero rappresentarlo ancora, nuovi sapori. E poi sono emerse consapevolezze di utilizzo, cioè quello che noi in etnobotanica concettualizziamo come cibo medicina, cioè quel fatto che la nonna era convinta o aveva questa consapevolezza che mangiando cicoriette non solo si nutriva ma nello stesso tempo manteneva in salute l'organismo. È una consapevolezza incredibile, no? E questo oggi ha conferme scientifiche, perché poi scopriamo che, e qui entra in gioco la nutraceutica, che queste erbe selvatiche sono serbatoi di antiossidanti, di vitamine, quindi veramente mantenevano in salute. Ad esempio, tra le modalità di uso c'era sempre, abbiamo visto in Grecia, in Spagna, il fatto, oppure anche la stessa Turchia, che dopo la cottura era consuetudine bere l'acqua di cottura, perché faceva bene. La ricerca biomedica, la ricerca nel campo della nutrizionistica, viene fuori che questi principi nutrizionali o nutraceutici, come li dovremmo chiamare oggi, ce l'avevano. Perché poi non è facilissimo trovare informazioni a riguardo, perché quando poi si parla di erbe spontanee, se erbe di campo, spesso si va nella deriva un po' della magia, no? Delle pozioni, è così. E invece dal punto di vista scientifico trovare informazioni non è facilissimo, invece sarebbe un privilegio riuscire a riconoscere queste erbe. In vie erbose voi raccontate la flora spontanea, diciamo, questo tipo di erbe pugliesi, però devo dire che io nel mio piccolo ho riconosciuto una pianta che ho lasciato crescere spontanea nel mio vaso di Milano, leggendo il suo libro, credo di avere un grespino spinoso. Probabile, queste piante noi le chiamiamo sinantropiche perché hanno seguito un po' sempre l'uomo, no? Hanno popolato gli agroecosistemi fino ad oggi a trovare rifugio nelle flore urbiche. Però è bene precisare che per imparare a riconoscere le piante è una fatica. Prima o poi bisognerà cominciare, cosa dice? Dobbiamo recuperare dei saperi che poi chissà che abbiamo lasciato in questi ultimi anni. Infatti questi saperi, poi noi viene fuori pure che questi raccoglitori, contadini eccetera eccetera, avevano le loro chiavi, cioè, la botanica usa le sue chiavi per determinare, avere poi la certezza della specie, loro avevano le proprie, ognuno aveva imparato, ed era sorprendente trovarli questi raccoglitori nel campo con quella padronanza di aver trovato la specie, cosa che noi in botanica ci fatichiamo parecchio, no? Per dire che ho trovato il lampacione, il raccoglitore pugliese spezza la fogliolina, se mentre la spezza si formano questi filamenti, allora lui è sicuro che quello è un lampacione. Nello biscotti il lampacione, che è poi, no, un cibo tipico pugliese, ma è il muscari? Esatto, è il muscari. Lo vede? Questa è una scoperta per molti cittadini. I cittadini purtroppo devono mettere in conto che per impararci un po' di botanica, quel libro può aiutare molto ad avvicinarsi a questo mondo, non dimentichiamo che è una scienza, quindi esistono gli specialisti. Con questo mondo ci si può avvicinare moltissimo. Non per niente, io mi sono un po' avvicinata alle piante cominciando dai fiori, le rose, le peonie, e ora la spontaneità mi affascina, faccio crescere quello che posso, arriva l'artemisia. poesia anche sul terrazzo di città. La spontaneità sta conquistando sempre di più la città e c'è bisogno insomma di sempre più divulgazione e conoscenza, ma in via Erbose ci sono anche, come diceva, tanti consigli pratici per i ricettari, le foto per avere un'idea di quella pianta, insomma un mondo che gira intorno alle erbe spontanee. Posso chiedere lei quali erbe spontanee coglie abitualmente, perché le preferisce come gusto, le mangia volentieri? Io e mia moglie le mangiamo da farci male, da farci venire le coliti, in tutte le comunità a scala europea, Italia meridionale. Il modo più diffuso di consumarle era la misticanza, cioè di metterle insieme tante specie, a volte fino a 30-40 specie diverse, così avevi la possibilità di fare il piatto saziante. Ognuno riusciva a concepire la propria misticanza. E la misticanza di Nello Biscotti? La misticanza di Nello Biscotti, io ci metterei sempre il gruppo delle rape selvatiche, del genere Sinapis arvensis, Sinapis alba. Questi erano bravi anche nel dosaggio, quanti ce ne mettevi. Quindi non doveva esserci mai un'erba, una specie che doveva prevalere, mai, perché sennò il profumo di questa qui poteva... Poi c'era il finocchietto selvatico, il maraciuolo, che è una forma di rucola selvatica. In quel libro noi le ricostruiamo anche queste misticanze. Ma la maniera ideale è mangiarle poi bollite e poi condite con olio d'oliva. In Puglia, ecco, è famoso la cicorietta selvatica con le fave, dal Gargano fino al Salento. Questo è il piatto più diffuso per le minestre, perché la minestra è il piatto quasi quotidiano. Perché queste erbe spontanee lo sono? Cioè, vale a dire, le possiamo coltivare volendo oppure no? Bravissima, hai centrato un'altra questione, perché poi queste erbe selvatiche sono le progenitrici delle specie coltivate e quindi ci possono aiutare a ricostruire il percorso che ci ha permesso di arrivare dalla carota selvatica, che c'ha un fittone sottilissimo, alla carota coltivata. E qui la botanica si sta spendendo moltissimo per cercare di ricostruire questi percorsi, perché abbiamo perso tutto. E quindi certo, perché molte specie, tipo la borragine, la rucola, queste erano specie già domesticate nel Medioevo e poi a un certo punto si è fermata questa domesticazione. Pure qualche specie di crespino noi siamo riusciti a documentare, che venivano coltivate normalmente negli orti, e sarebbe interessante oggi riprendere questi processi di coltivazione interrotte. In Puglia siamo stati i primi che abbiamo cominciato a coltivare la rucola, la rucchetta selvatica, e da 5-6 anni ci siamo messi a coltivare le famose salicornie. Che cos'è la salicornia? Però sulla rete lo chiamano asparago di mare. Sono tutte piante che costituivano quelle che chiamavamo noi in botanica, chiamiamo ancora steppe salate, cioè delle zone costiere dove si facevano questi ristagni di acque salmastre, ed erano popolate solo da queste specie, da famiglia delle chenopodiacee, che è un'erba gustosissima, bollita semplicemente, condita con olio e aceto, diventa un contorno oggi, ma 50-70 anni fa era la minestra di questi pescatori che vivevano queste lagune italiane. Ecco, c'è un interesse perché possiamo cominciare a riprendere processi di domesticazione che non facciamo più da tempo. Quante delle erbe spontanee di cui parlo nel libro, che sono tantissime, sono presenti anche nelle altre regioni, non in Puglia, in percentuale, diciamo? Beh, il 90%, il 90%, perché le specie edibili erano specie comunissime, popolavano le campagne, la vigna, lo sveto, per cui sono specie che semmai non le ha create Dio, ma si sono create nel momento in cui abbiamo cominciato a creare le campagne, perché nel bosco non troverai mai la rucchetta o la borragine. La porcacchia o la portulaca è una specie che per il contadino era un infestante, però era tollerata perché sapeva che con quella portulaca poteva farsi nel Gargano l'insalata del mietitore. Portulaca, ricchissima di omega 3 questa qui. L'insalata del mietitore era cipolla rossa, germogli teneri di portulaca e pomodoro condito con olio e aceto, qualcosa di sapore, in termini di sapori, di unico. E abbiamo avuto anche una ricetta. Tornando al mio grespino spinoso, che mi è arrivato spontaneamente al settimo piano sulla circonvallazione, dal libro ho letto che non soltanto edibile, si mangia e buono, ma anche curativo, perché evidentemente usavano l'acqua di cottura. Senta, Vie erbose, Nello Biscotti, Daniele Bonsanto, 560 pagine, come si fa a avere questo libro? Io devo essere sincero, me lo permetta, nessun editore sarebbe mai sognato di pubblicare quel libro. Allora ci siamo avventurati noi, mi piace sottolineare il contributo della Coldiretti di Foggia, che ci ha sostenuto nella stampa, quindi siamo usciti con questa prima edizione, facciamo una vendita online e la gente sta rispondendo, ma io sono convinto che magari grazie a questa trasmissione pure qualcosa può succedere. C'è una pagina Facebook di Erbose e lì si può prenotare una copia. Molto semplice, basta cercare su Facebook Vie Erbose, il volume del professor Nello Biscotti, che ringrazio per essere stato al Giardino Segreto. Io vi ringrazio veramente, io ho apprezzato moltissimo. L'erbaccia è una pianta della quale non sono state ancora scoperte le virtù. Ralph Waldo Emerson. Lo so cosa vi state chiedendo. Costa 45 euro Vie Erbose, spesi benissimo. Ci fermiamo un istante, ci troveremo tra un attimo a Milano, dove sta per nascere una food forest. Il giardino segreto. Ben ritrovati. Dalle erbe spontanee della Puglia, che poi abbiamo sentito si trovano anche in quasi tutte le altre regioni, al bosco edibile che sta per nascere a Milano, grazie a un progetto di Etifor, azienda spin-off dell'Università di Padova, che sta per portare una food forest al Parco Nord, dove i cittadini potranno conoscere da vicino, ovviamente quando gli alberi saranno cresciuti, tutto quello che la natura può regalare non solo agli umani, ma anche alle api e agli animali in termini di nutrimento. A coordinare il progetto è Lucio Brotto di Etifor. Ben trovato al Giardino Segreto. Buona domenica a tutti, ascoltatori. Esattamente, diciamo che il primo obiettivo è proprio questo, è quello di far conoscere quelle che sono le specie che magari molti di noi hanno proprio fuori dal proprio balcone o anche magari nel proprio giardino condominiale, ma non le conoscono. Quindi ecco che la food forest sarà pensata per avere dei percorsi che si fanno in autunno, inverno, estate, a seconda di quando i prodotti del bosco come fiori, gemme, bacche e frutti sono pronti, e ci sarà un QR code per le specie in maniera tale che la persona possa riconoscere la specie e anche guardare magari una ricetta. Quindi attraversare quella foresta significherà in qualche modo anche fare una sorta di visita guidata e quindi riconoscere le piante che abbiamo davanti e il loro possibile utilizzo. Esattamente, non è previsto la raccolta libera, è pensato invece come un percorso che sarà molto spesso guidato, questo ovviamente da qui a 2, 3, 4 anni, quando gli arbusti e le piante inizieranno a produrre fiori, frutti, gemme, bacche. Tra poco parleremo anche di quali arbusti e piante verranno posizionati in questo bosco per capire anche le loro caratteristiche. Prima spieghiamo, sarà una foresta edibile al Parco Nord, zona Abruzzano? Sono 2000 piante per iniziare, occuperanno all'incirca una superficie di 10.000 metri quadri, quindi un ettaro. Un ettaro a Milano, si comincia quest'autunno, tra poco? Esattamente, diciamo il momento migliore per piantare giovani alberi in pianura, in un contesto come quello di Milano, è a partire dalla fine di ottobre, inizio di novembre, quindi faremo proprio delle giornate dedicate dove le persone che adottano gli alberi online possono venire e piantare anche il proprio albero. Oh, siamo arrivati all'adozione, perché in effetti a chi è venuta questa idea, con quali fondi? Allora, l'idea è nata da team di progettazione, diciamo, di Etifor, quindi dell'azienda dello spin-off, per il quale lavoro, come soluzione per dare la possibilità alle persone di prendersi cura delle aree naturali che li circondano e andarle anche a migliorare. Nello specifico poi di Milano abbiamo incontrato nel nostro percorso anche degli imprenditori delle imprese, ed è il caso per esempio dei ristoranti Tez Vapore, che hanno deciso di contribuire, quindi abbiamo, diciamo, trovato anche il sostegno poi degli imprenditori locali. E poi c'è il crowdfunding, immagino. Esattamente, poi c'è la possibilità per tutte le persone di andare nel sito Wow Nature, selezionare all'interno dell'area del Parco Nord Milano la specie che preferiscono e la possono acquistare, e con quei soldi è compresa la parte, diciamo, di impianto che viene assistito, quindi assistiamo le persone nella fase di impianto. Chiaramente chi non può partecipare, l'albero verrà comunque piantato dagli esperti, e dopo anche la fase di manutenzione che viene fatta insieme al Parco Nord Milano. Tantissime piccole azioni possono davvero trasformare il mondo. In questo caso ricordiamoci di Wow Nature, che è una piattaforma di crowdfunding dedicata alla natura. Esattamente. Senta, per quanto riguarda le specie, si diceva che noi cittadini purtroppo non distinguiamo un melo da un pero, e questa è la verità, e anche per questo progetti come quello che ci sta raccontando sono veramente fondamentali, anche perché c'è un desiderio sempre crescente di riappropriarsi della natura, no? Di non affidarsi più alle confezioni sotto cielo che troviamo nella grande distribuzione, cominciare a capire da dove arrivano i prodotti che mangiamo, come si coltivano, come si utilizzano le piante, da cui siamo ormai lontanissimi in città. E leggo le specie che verranno, diciamo, le piante che verranno piantate. Vabbè, sul melo, il nocciolo, il ciliegio, il pero selvatico, possiamo anche possiamo tralasciarli. Però, per esempio, perché pianterete sanguinella, tiglio, quercia, carpino, rosa canina, biancospino? Si mangiano? Allora qui, diciamo, il nostro concetto di food forest, che rimane una foresta, non è un frutteto, non è un orto. Okay? È una foresta che deve essere buona da mangiare sia per l'uomo ma anche per gli animali. Quindi ecco che abbiamo quattro gruppi di piante all'interno di questa foresta. C'è un gruppo che è specializzato, sono proprio i frutti che si possono cogliere e mangiare tal quali, che l'uomo può cogliere, quindi gelsol, giuggiola, melograno, il nocciolo, l'azzeruolo, il ciliegio, il fico e altri. Ci sono poi invece quelli che producono, diciamo, dei frutti, delle gemme, delle bacche, che sono ottimi se vengono elaborati, quindi trasformati dall'uomo. Vedi per esempio il caso del prugnolo, con cui si fa un liquore, piuttosto che la rosa canina, con cui si fanno degli estratti per fare tè e bevande, piuttosto che il sambuco, che è molto conosciuto perché si fa il sciroppo di sambuco. Terzo gruppo è il gruppo invece delle piante che fanno fiori, fiorescenze che producono miele. Quindi ecco il tiglio, la frangola, l'acero, la sanguinella, sono tutti alberi, arbusti che producono una grandissima quantità di polline, che è quindi utilizzato dalle api. L'ultimo gruppo, quindi il quarto gruppo, è invece quello per gli animali, quindi ecco che il carpino, la quercia, il frassino sono alberi che di per sé direttamente danno, chiaramente, come se facciamo la quercia, tantissimi frutti come le ghiande, ma che l'uomo direttamente non trae beneficio, che però sono molto apprezzati dagli animali. Quindi ecco che con questi quattro gruppi di piante riusciamo a soddisfare sia l'uomo che anche gli animali, la fauna. Tutti gli esseri viventi sono coinvolti, ecco, perché non esistono soltanto gli uomini, evidentemente, come invece ormai siamo convinti da tantissimo tempo. C'è la possibilità eventuale poi di allargare anche alle piante, non so come si possono definire, officinali, curative? Allora, diciamo che di solito una food forest viene definita tale quando ci sono almeno tre strati separati di piante. Quindi di solito c'è lo strato arboreo, i grandi alberi, ci sono gli arbusti, come può essere un nocciolo, una frangola, piuttosto che altri, e poi c'è lo strato, diciamo, erbaceo. Nel caso del Parco Nord Milano ci siamo limitati per il momento a fare un intervento che prevede solo due strati, gli alberi e gli arbusti. Non è da escludere che quando questi si siano affermati, che cominciano a costituire la foresta, si vada sotto anche a trovare lo spazio per includere quelle erbe spontanee del bosco. Pensate per esempio, che ne so, l'aglio orsino, per fare un esempio, che sono anche molto utilizzati in cucina, piuttosto che trovare anche delle aree dedicate per quelle che sono erbe che hanno finalità, diciamo, medicinali piuttosto che aromatiche. Siti per seguire l'iniziativa? I siti per seguire l'iniziativa è il sito www.wownature.eu, che è il sito web dove le persone possono appunto andare a selezionare le specie, piuttosto che il sito web diretto di Etifor, che è etifor.com. E così possiamo rimanere aggiornati. Lucio Brotto di Etifor, grazie per essere stato al Giardino Segreto. Grazie mille, grazie anche a voi. Non si può ammirare la natura per procura. Winston Churchill. Grazie per aver seguito fin qui il Giardino Segreto. Scopriremo molto altro su alberi e piante domenica prossima, sempre alle 15.30. Riascoltate quando volete in podcast per scrivermi ilgiardinosegreto@radio24.it. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.